Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di due libri di economia e questo è proprio il tema della rubrica e quindi siamo in argomento. Un libro un po' più teorico ed è di Michele Salvati. Buongiorno professor Salvati. Buongiorno, buongiorno. Capitalismo, mercato e democrazia, un libro che entra nel grande tema del rapporto tra il capitalismo e la democrazia. E il secondo libro è di Mauro Castelli. Buongiorno Castelli. Buonasera. A prova di crisi, in viaggio tra i protagonisti del Made in Italy, dove si racconta la storia di imprese, la storia delle imprese italiane, soprattutto delle imprese che stanno cercando e stanno ottenendo risultati positivi di fronte alla crisi. Ma iniziamo con Michele Salvati, professore di economia all'Università degli Studi di Milano, è stato anche parlamentare nel gruppo di S, è un attento osservatore della realtà economica e in questo libro, che è anche un po' un'antologia di temi, di interventi da parte di studiosi, da Dan a Dahrendorf, sul rapporto tra capitalismo e democrazia, approfondisce il valore attuale e direi soprattutto alla luce della crisi, della grande crisi globale che abbiamo vissuto in questi anni. Allora, professor Salvati, forse la domanda può essere retorica: perché parlare di questo tema in questa fase? Ma guardi, questo tema maturava da tempo e il fatto che capiti in questa fase non è strettamente legato alla fase, cioè alla crisi che stiamo vivendo, alle difficoltà di uscirne, no? Sono legati molti miei altri interventi, specie quelli di natura più giornalistica, no? E non escludo di poterne trattare in maniera più dettagliata e in forma più comprensiva in un altro momento. Questo è è un insieme di studi che io ho sempre compiuto, ai confini tra l'economia e la scienza politica, e fondamentalmente si domanda quali sono le condizioni che consentono una democrazia, una buona democrazia, una democrazia che incorpora i valori che una democrazia dovrebbe sostenere, quella di eguaglianza di fronte alla legge, quella di partecipazione dei cittadini alle decisioni collettive, insomma tutte le cose che abbiamo in mente quando si parla di democrazia e le cose che aveva in mente Tocqueville quando ritornò dall'America e scrisse il suo famoso libro. Quindi è un libro di riflessione teorica. Ed è costruito così, no? Nel corso di questi ultimi 4 anni io ho scritto un insieme di lunghe recensioni, per intenderci sono recensioni tipo quelle della New York Review of Books, cioè sono piccoli saggi in buona sostanza, 5.000-10.000 parole con note bibliografiche eccetera, su libri importanti che sono usciti su questo tema, quello di John Dunn l'ha già menzionato anche lei. No, un libro famoso di Kevin Phillips che è uscito da Garzanti qualche anno fa su ricchezza e democrazia negli Stati Uniti, quel libro celebre di Reich, no, sulla democrazia nel supercapitalismo, un libro di Glynn, un libro di Castells, Attalie, insomma Dahrendorf, cioè libri importanti e che per coloro che si occupano della compatibilità tra capitalismo e democrazia, no, sono libri da leggere. Allora io ho pensato che raccogliere queste cose che erano molto legate a questo tema e premettergli una lunga introduzione che spiegasse cosa intendo per capitalismo, cosa intendo per democrazia, cosa si deve intendere per questi, fosse una cosa utile per il lettore che tra l'altro può andarsi a prendere questi libri e guardarseli, sono libri importanti. La mia introduzione iniziale semplicemente parte a un distico in cui si dice non ci può essere democrazia senza proprietà e mercato vogliono dire capitalismo, ma il capitalismo contrasta con la democrazia. Allora, spiego brevemente questo trittico, non è un distico, voglio dire che sono tre affermazioni apodittiche molto dure che poi vengono accuratamente spiegate all'interno, perché non ci può essere democrazia senza proprietà del capitalismo. Questo è uno dei punti su cui coloro i quali attaccano il capitalismo in nome della democrazia, no, sbagliano fondamentalmente. Cioè l'idea, per aversi democrazia devono esserci un insieme di poteri, di cittadini che sono economicamente indipendenti rispetto allo Stato e rispetto ai grandi poteri stessi dell'economia, cioè persone che traggono la loro sussistenza, il loro benessere, la loro vita da un sistema nel quale c'è indipendenza, in cui lo Stato non interviene, voglio dire. Non ci potesse democrazia, tanto per intenderci, nel socialismo reale, semplicemente che lo Stato era padrone di tutto e quindi sostanzialmente era un'enorme burocrazia e tutti erano suoi dipendenti. per aversi democrazia ci deve essere indipendenza, questo è il punto di fondo, e il bello del sistema capitalistico, quando, di un sistema di mercato, quando funziona bene, quando è un sistema concorrenziale, è che produce una grande quantità di posizioni indipendenti. Poi è vero, ci sono le grandi imprese, ci sono i dipendenti di queste imprese, ma questi naturalmente, sempre se l'economia funziona bene, sempre se il mercato del lavoro sostiene questo, no, possono licenziarli, o quando sono licenziati possono trovare degli altri posti. Fondamentalmente l'idea è che il capitalismo, un sistema di mercato, è l'unico modo per garantire una indipendenza che è necessaria affinché si possa avere democrazia. Quindi il capitalismo può essere considerato come una base, cioè non ci può essere democrazia senza capitalismo, forse non ci può essere capitalismo senza democrazia? No, la seconda parte non segue. Non segue, ecco. Ovviamente, perché abbiamo avuto fascismi di tutti i tipi e di tutte le risme, che erano regimi capitalistici ma in cui non c'era democrazia. Cioè è vera la prima cosa, non ci può essere democrazia senza proprietà private e mercati, senza libertà, in fondo. Senza libertà, francamente, ma senza indipendenza, anche indipendenza economica, perché è fondamentale. Tu non sei libero se qualcuno ti ricatta sul mercato del lavoro, se sei occupato dalla stessa persona, che è anche il potere politico. Quindi non ci può essere una cosa di... No, ci deve essere questa autonomia di fondo. Invece ci può perfettamente essere, capitalismo, senza democrazia, e tutti i fascisti sono lì a dimostrarlo, anche se poi dopo a volte intralciano lo stesso sviluppo capitalistico, a volte sì, a volte no, ma in ogni caso la seconda pezza non è vero. Quindi ci abbiamo tutto l'interesse ad avere un capitalismo efficiente perché ci possa essere anche una democrazia reale. Questo è quanto mi sembra di poter dire, ma lo dico proprio senza infamia e senza lode, voglio dire, lo dico come una constatazione di fatto, lo dico anche analizzando perché non ci può essere democrazia come l'intendiamo, voglio dire, democrazia rappresentativa, democrazia liberale, democrazia in cui l'autonomia dei singoli è pienamente garantita, una democrazia costituzionale in cui i loro poteri, no, i loro diritti, no, siano sostenuti anche di fronte allo Stato. Ecco, io la ringrazio per osservarti, il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere, io la ringrazio per questa presentazione molto appassionata del libro Capitalismo, Mercato e Democrazia, Michele Salvati, lo ricordo, professore all'Università degli Studi di Milano, professore di economia, e dal capitalismo come genere dello spirito, potremmo dire, passerei ai capitalisti, cioè a chi magari in piccola parte, perché l'Italia è una realtà di piccoli capitalisti, a prova di crisi, in viaggio tra i protagonisti del Made in Italy, è il libro di Mauro Castelli. Mauro Castelli è stato giornalista del Sole 24 Ore, segue ancora per il Sole 24 Ore le esperienze, le attività di chi sta portando avanti la sua esperienza di Made in Italy. Questo è il quinto, sesto libro? È il settimo addirittura. È il settimo libro che raccoglie le storie di questi protagonisti. Sono storie appunto di medi imprenditori che hanno portato avanti la loro impresa, che hanno costruito appunto dei casi di successo in tutti i campi, dalla farmaceutica, Alberto Leotti, alle biciclette con Ernesto Colnago, a Giulia Maria Crespi, che è forse un caso particolare, presidente del FAI con la sua battaglia per l'ambiente, altre persone forse più o meno note, però Snyder per le cucine per esempio, Targetti per le luci. Che cosa li accomuna, Mauro Castelli? Beh, li accomuna la voglia di fare, la voglia di riuscire a realizzare un sogno. Quasi tutte queste storie partono dal niente. Io ho già intervistato più di 220 imprenditori e a un certo punto mi sono reso conto che ci sono dei punti in comune fra tutti questi grandi personaggi. Avere un'idea, riuscire a portarla avanti e saper prendere il treno nel momento in cui passa, perché il treno passa in genere per loro una volta soltanto. Ecco, Marco Vitale nella sua introduzione dice che il libro parla di storie di impresa, ma sempre fondendo l'impresa con la figura di chi l'ha creata e di chi la conduce. Forse la realtà dell'impresa italiana è questo appunto coincidenza tra l'impresa e l'imprenditore, è una realtà appunto che fa sentire un'impresa come qualcosa di vivo. Certo, a me piace raccontare di questi imprenditori non solo dal punto di vista industriale, ma soprattutto dal punto di vista del personaggio, cioè cercare di sviscerarlo nelle prime 20 righe, di far capire che tipo è. Molti conoscono l'azienda, molti non conoscono il loro fondatore. È molto bello andare a ripercorrere con aneddoti di prima mano queste storie che veramente hanno delle incredibili. Prima tu parlavi di medi imprenditori, in realtà io ho fatto tutti i più grossi imprenditori e ne allego sempre dei medi e anche dei piccoli per far sì che a un certo punto facciano da traino a tutti. Insomma. Ecco, perché sono alcuni imprenditori che sono certamente non grandi imprenditori, però hanno quella passione per il prodotto. Mettiamo Ernesto Colnago per le bici, non hanno delle grandissime imprese, però sicuramente la Bici Cornago è conosciuta in tutto il mondo. Questo per la passione proprio sul prodotto, per l'approfondimento, per la capacità di innovazione, che è qualcosa che va al di là della ricerca scientifica e tecnologica, ma è un'innovazione che proprio si vede dalla parte di chi lo produce, ma in fondo lo ama questo prodotto. Certo, Cornago è partito da niente, facendo praticamente il meccanico, e ha portato la sua aziendina, che poi è una bella azienda, a diventare il numero uno al mondo nelle biciclette su misure, con ovviamente delle tecnologie assolutamente d'avanguardia. Altri casi in questo libro ricordo, a prova di crisi, edito da Sole 24 Ore, che meritano di essere citati, andrebbero citati tutti indubbiamente. Sì, ce ne sono alcune che meritano in particolare. Uno per una questione di età e di storia che ha portato avanti, e che è Aleotti, appunto, il proprietario della Menarini, che è un signore che fattura quasi 3 miliardi di euro, quindi non è proprio piccolino. È un numero uno della farmaceutica in Italia e ha iniziato praticamente dal niente, ed era talmente povero che doveva andare in bicicletta dalle parti di Reggio Emilia, dal paese, andare a scuola, e ovviamente lo consideravano, mentre gli altri, il figlio del dottore andava in pullman, lo consideravano proprio l'ultimo arrivato, e adesso le sue brave rivincite se le è prese e ha dato dei numeri a tutti. Un altro caso invece che ti volevo citare è quello di Gino Straffi. Ha solo 45 anni ed è il nuovo Walt Disney italiano. Praticamente è un signore che ha dei margini operativi pazzeschi, con un giro d'affari indotto di 1,5 miliardi di euro. 45 anni. Adesso ha appena iniziato con una nuova esperienza, una nuova società a Singapore, e parteciperà al montone alla nascita di un parco a tema di grandi dimensioni. Quindi nel complesso si può dire che il capitalismo italiano sotto un certo profilo funziona. Ma certo, si parla sempre male di questa Italia, in realtà ci sono delle bellissime realtà, molte che navigano alla luce del sole, altre invece che navigano nell'ombra, che non amano parlare, però sempre grandi imprenditori. Grazie a Mauro Castelli. Abbiamo parlato del suo libro A prova di crisi, in viaggio tra i protagonisti del Made in Italy, edito dal Sole 24 ore. Prima abbiamo parlato con Michele Salvati di Capitalismo, Mercato e Democrazia, edito dal Mulino. Grazie a quanti ci hanno ascoltato e grazie anche a Filippo Reggi in regia e Anita Panizza in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.